Grazie Stefano, buongiorno Chiesa. Buongiorno. Oh, stamattina splende il sole ed era fantastico dopo una settimana di pioggia, vero? Buongiorno Chiesa. Ah, così è meglio, molto meglio. Avete notato che domenica scorsa in uno dei versetti c'era scritto che per essere ripieni dello Spirito bisogna fare cosa? E vabbè, dici Gianlu, questa è una domanda un po' a trabocchetto, si sono dette tante cose. C'era scritto in questo versetto: non ubriacatevi, il vino porta dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Quindi per essere ricolmi di spirito, parlatevi con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e salmeggiando al vostro Signore. Per essere ricolmi di spirito dobbiamo imparare a parlarci, a cantare con i salmi e con i canti spirituali. C'è scritto spirituali, da sottolineare bene, eh? Romina Power e Ipu non valgono, per tutto il rispetto che ho per questi gruppi che sono, però non valgono, eh? C'è scritto spirituali, dobbiamo riempirci di questi, dobbiamo saturarci di questi canti per poter essere ripieni dello spirito e poterci parlare in modo che edifica, che aggiunge sempre più Dio a noi, alla nostra anima e al nostro corpo. Amen. Il Salmo 104 è un esempio glorioso di questa cosa qui, di come il salmista dice a se stesso: stupisciti di Dio, stupisciti di chi Dio è e adoralo per chi è, perché Lui è immenso, è glorioso, è grandissimo. Lo sai che tuo Dio è gloriosamente grande e stupendo, come il sole di questa mattina, però Lui risplende miliardi di volte di più di quel sole. Lo sapevi? Questo è il tuo Dio, il mio Dio. Sapete, io non sono un tipo muscoloso, vero? No, non c'è niente da ridere. Un sì o no, ma bastava. Sono un tipo muscoloso? Grazie per il sì, però è una bugia spudorata perché non lo sono. Vi faccio vedere questa immagine che, diciamo, cataloga tre bracci, no? Dalla A alla C. Diciamo che io sto alla F, forse, o più in fondo ancora, no? Giusto? Cioè io vi ho fatto vedere questa immagine perché non volevo uscire il mio braccio, perché giusto per risparmiarvi questo spettacolo osceno. Però ricordo un giorno, parlando con i miei figli, che sarà stato sicuramente di estate, sai, sei in maniche corte, e i miei figli notarono il mio braccio, no? Solo loro lo potevano notare per la possenza che aveva. E quindi mi hanno detto, no, erano, io ricordo, Elijah e Aurora erano ancora piccolini, molto piccoli, 2-3 anni forse, e mi dicevano, a dire il vero era già nata Chloe, che in quel periodo diceva forte, faceva così perché si credeva forte. E allora i bambini, no, mi dissero: papà, ci fai vedere il tuo papà quanto è forte? Allora io, no, ho flesso, se così si dice, il mio muscolo si è gonfiato, per quello che il mio muscolo si gonfia, ovviamente. Di nuovo, non c'è niente da ridere. E si è gonfiato e ho visto i loro occhi. I loro occhi erano... wow, ma è una cosa grandiosa, è una cosa meravigliosa, è una cosa grandissima. Loro lo vedevano così, eh? Sono i miei figli e li amo per questo. E loro vedevano, e io ricordo vivamente i loro occhi. Erano di piccoli bambini che vedevano il braccio del papà, perché non conoscevano nessun altro braccio nella loro vita, lo vedevano più grande del loro e dicevano: wow, è glorioso. E il loro cuore era stupefatto di questo braccio possente che era il mio, che era la FGHI, diciamo così. E il loro cuore era pieno di questa meraviglia. E poi sono cresciuti, no? E adesso i loro muscoli sono quasi più grossi dei miei. E quindi questa meraviglia un po'. La mia preghiera questa mattina è che noi possiamo rimanere piccoli bambini e rimanere stupefatti alla grandezza di chi Dio è. Io prego questa mattina una concentrazione nei nostri cuori, che è come se fosse la prima volta che andiamo a questo salmo, alla sua parola. Fratelli e sorelle, Lui è qui. Il Dio glorioso, come vedremo, il Dio magnifico è qui. Questa, concentra la tua mente, concentra il tuo cuore, Lui è qui. Ascolta la sua parola, rivolgiti a Lui questa mattina, concentra il suo cuore su di Lui, perché è in tutta la sua grandezza, in tutta la sua gloria, Lui è qui. Che il senso dello stupore nei nostri cuori possa risvegliarsi, possa riaccenderci, perché il nostro Dio è grande, è veramente grande. Leggiamolo questo salmo, ma io prego, leggiamolo con cuori diversi. Leggiamolo con cuori che riescono a vedere il nostro Padre per quel glorioso Dio che è. Concentra il tuo cuore adesso, perché Dio è qui, quel Dio che ha creato, quel Dio che ha trasformato, quel Dio che ha guarito, quel Dio che ha risuscitato. Accendi la tua fede questa mattina, Lui è qui. Leggiamolo in modo diverso, sentiamolo in modo diverso, viviamolo in un modo diverso. Se hai bisogno di chiudere i tuoi occhi, chiudi i tuoi occhi. Pregalo questo salmo insieme a me mentre lo leggo. Concentriamo le nostre menti, i nostri cuori a Lui. Sentite quello che dice questo Salmo, il Salmo 104. Anima mia, benedici il Signore. Signore, mio Dio, Tu sei veramente grande. Sei vestito di splendore e di maestà. Egli si avvolge di luce come di una veste, stende i cieli come una terra. Egli costruisce le sue alte stanze sulle acque, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento. Fa dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Egli ha fondato la terra sulle sue basi, essa non vacillerà mai. Tu l'avevi ricoperta dell'oceano come di una veste, le acque si erano fermate sui monti. Alla tua minaccia esse si ritirarono, al fragore del tuo tuono fuggirono spaventate. Scavalcarono i monti, discesero per le vallate, fino al luogo che tu avevi fissato per loro, Signore. Tu hai posto le acque a un limite, che non oltrepassassero. Esse non torneranno a coprire la terra. Egli fa scaturire le fonti nelle valli ed esse scorrono tra le montagne, abbeverano tutte le bestie della campagna, gli asini selvatici vi si dissetano. Vicino a loro si posano gli uccelli del cielo, tra le fonde fanno udire la loro voce. Egli annaffia i monti dall'alto delle sue stanze, la terra è sazia con il frutto delle tue opere. Egli fa germogliare l'erba per il bestiame, le piante per il servizio dell'uomo. Fa uscire dalla terra il nutrimento, il vino che rallegra il cuore dell'uomo, l'olio che gli fa risplendere il volto e il pane che gli sostenta il cuore dei mortali. Si sazino gli alberi del Signore, i cedri del Libano che egli ha piantati, gli uccelli vi fanno i loro nidi, la cicogna fa dei cipressi la sua dimora, le alte montagne sono per i camosci, le rocce sono rifugio per gli iarici. Egli ha fatto la luna per stabilire le stagioni, il sole conosce l'ora del suo tramonto. Tu mandi le tenebre e si fa notte, in essa si muovono tutte le bestie della foresta, i leoncelli ruggiscono in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo. Sorge il sole ed essi rientrano, si accovacciano nelle loro tane, l'uomo esce all'opera sua e al suo lavoro fino alla sera. L'uomo esce all'opera sua e al suo lavoro fino alla sera. Quanto sono numerose le tue opere, oh Signore! Quanto sono numerose le tue opere, oh Signore. Tu le hai fatte con tutta sapienza, la terra è piena delle tue ricchezze. Ecco il mare, grande e immenso, dove vi si muovono creature innumerevoli. Animali piccoli e grandi, là viaggiano le navi e là nuota il Leviatano che hai creato perché si diverta. Tutti quanti sperano in te, perché tu dia loro il cibo a suo tempo. Tu lo dai loro ed essi raccolgono. Tu apri loro la mano e sono saziati di bene. Tu nascondi la tua faccia e sono smarriti. Tu ritiri il loro fiato e muoiono, ritornano nella loro polvere. Tu mandi il tuo spirito e sono creati e rinnovi la faccia della terra. Duri per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. Egli guarda la terra ed essa trema. Egli tocca i monti ed essi fumano. Canterò al Signore finché vita avrò. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita. Possa la mia meditazione essergli gradita, io esulterò nel Signore. Spariscano i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. Anima mia, benedici il Signore. Alleluia. Alleluia. Amen. Questo è il glorioso Salmo 104. E inizia col dire anima mia. Il salmista inizia col dire a se stesso, alla sua anima, al cuore del suo cuore, alla parte più intima: risvegliati, tu loda Dio, tu accenditi, anima mia, cuore del mio cuore, non essere distratto da nulla, non essere preso da null'altro, anima mia, risvegliati, anima mia, accenditi, anima mia, mettiti in moto, anima mia, combatti con le distrazioni, combatti con la pigrizia, combatti con le cose che ti fanno paura e provocano ansia, anima mia, cuore del mio cuore, la parte più intima di me, accenditi a Dio. È qui che inizia il Salmo. È qui che inizia il Salmo. È qui, fratelli e sorelle, dovremmo iniziare noi. Perché i nostri cuori, il mio prima e più di tutto, è distratto. È preso da mille ansie e mille paure. È preso da mille preoccupazioni. Ma il salmista non guarda queste. Non le cita neanche, vero? Non c'è scritto nulla. Dice una cosa. Anima mia, fai una cosa. Togli te stesso dal piedistallo, togli te stesso le tue preoccupazioni, le tue paure, quello che ti preoccupa, tutto quello che ti distrae, toglilo da quel piedistallo e metti il Signore. Non è vero? È una cosa meravigliosa che il Salmo inizia con il nostro cuore, con il cuore del salmista. Il cuore del salmista fa proprio questo. L'adorazione deve iniziare dai nostri cuori. È un'arma potentissima nella nostra battaglia da credenti. Romani 8 dice che chi è dello Spirito pone, volge, mette la sua mente, i suoi pensieri, la sua concentrazione, il cuore del suo cuore, la sua anima alle cose dello Spirito. Questo è quello che sta facendo il salmista. Inizia così, predicando a se stesso e dice, anima mia, fai questo. Cuore del mio cuore, fai questo. Non essere distratto, sii stupito, diventa quel piccolo bambino di nuovo che è stupito dal braccio possente di suo padre. Anima mia, il tuo Dio è meraviglioso, il tuo Dio è grande, no? L'abbiamo visto nel Salmo. E il salmista dice accenditi a questo. La mia preghiera per ognuno di noi questa mattina, in questo luogo, Dio, quel Dio meraviglioso e onnipotente che vedremo, è qui questa mattina, è qui in mezzo a noi, è qui che ci ha parlato attraverso questo Salmo, sono le sue parole. Potete immaginare un po' questa cosa? Che i nostri cuori possano risvegliarsi a questo. Il salmista prende a schiaffi il suo cuore, no? In queste mani, lo prende a schiaffi e dice svegliati. Svegliati alle cose di Dio. Gesù Cristo l'ha detto in un altro modo, no? Alla donna samaritana ha detto giungerà l'ora o è giunta l'ora che i veri adoratori lo adoreranno in spirito e verità. Il salmista sta predicando a se stesso e sta dicendo anima mia, adora il Signore, adoralo con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore, con tutta la mente della tua mente, l'intimo del tuo intimo e fallo con tutte le tue forze. Anima mia, adora il Signore in spirito e verità. Questo è come inizia e come finisce il Salmo. Quindi è come se lo racchiude in tutto questo. Questo è il punto del Salmo. Il salmista chiama se stesso a fare una cosa, a benedire il Signore. No, c'è scritto il primo verso, siamo ancora, lo so, non vi preoccupate, lo so che siamo ancora al primo verso e ci sono 35, ce la faremo. No? Vi vedo, ci siete ancora? Ok, benissimo. E il Signore dice, il Salmo dice, anima mia, benedici. Il salmista chiama il cuore del suo cuore a fare una cosa, a benedire il Signore. Qui non è dire una buona parola a Dio, no? Non è il senso della parola. Qui non è dire, ma Signore, io spero che tu possa stare bene, spero che tu ce la faccia. Forza, Signore, io prego che tu sia... Il Signore non ha bisogno di questo. Lui è infinito, l'abbiamo visto. Lui ha creato ogni cosa, sostiene ogni cosa e si attorna di ogni cosa. Non ha bisogno di questo incoraggiamento, il Signore. Il senso di questo termine è... Si mette in ginocchio il salmista. Si mette in ginocchio e dice... Sì, benedetto. Sì, benedetto, io dico bene di te, io dico tutte le cose, elenco tutte le cose bene di te, perché tu sei glorioso. In altre parole, che cosa sta facendo? Si sta inginocchiando davanti al Signore e lo sta adorando. E questo è il senso della parola, anima mia, adora Dio per quello che è, lodalo per quello che è. E dice il Signore, dice anima mia, benedici il Signore. Non, come ho detto prima, nessun'altra cosa. Non dare la concentrazione, non dare il fulcro di quello che tu fai alle tue cose, alle tue preoccupazioni, a quello che tu devi fare, a quello che tu devi vivere, a quello che tu vorresti essere e non sei, alla dieta che vorresti portare avanti e non riesci, a quella relazione che va bene e non ci sta ancora. Il salmista dice, anima mia, non le pensare neanche quelle cose, fai una cosa, adora il Signore. E il salmista fa questa cosa che a me piace tantissimo, che la chiamo l'arte di predicare a se stesso. L'arte di predicare a se stesso. E fratelli e sorelle, io prego che questa mattina e questa settimana il Signore possa accendere in noi la capacità di predicare a noi stessi nelle nostre circostanze. Pensate un po', e questo, usciamo un po' dal messaggio, usciamo un po' da, pensate un po', il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Mosè, il Dio di Giosuè, il Dio di Isaia, di Geremia, di Samuele, il Dio che si è fatto carne, è morto e risorto dopo 3 giorni, il Dio che ha guarito ciechi e malati, che ha moltiplicato i pani, che un giorno tornerà in gloria. Lui è qui. E io posso rivolgermi a Lui. E io posso dire a me stesso, adoralo per quello che è. Che la mia mente, che il mio cuore, che tutte le mie forze, a prescindere da come mi sento, e poi lo vedremo, che io possa concentrarmi su di Lui e sulla gloria che Lui è. Amen. Io prego che come Chiesa riusciamo a prendere a schiaffi il nostro cuore, perché non solo il vostro, ma il mio ha bisogno di essere preso a schiaffi, letteralmente, forse anche a cazzotti a volte, e ha bisogno che qualcuno gli dica, che io gli dica, svegliati cuore. Perché il tuo Dio è glorioso, è magnifico, ha fatto cose immense e tu puoi andare da Lui ogni volta che vuoi. Ogni volta che vuoi. Che i nostri tempi di preghiera, che i nostri tempi nella parola, che i nostri tempi programmati da calendario o quelli che capitano, che non siano un dovere, che non siano un peso, ma devo leggere, ma devo pregare, oh, ah sì, io devo fare questa cosa. Abbiamo l'opportunità di andare davanti a Lui. Ed è una cosa gloriosa. Amen? Questo è il salmista, è quello che dice nel primo versetto. Dice, anima mia, cuore del mio cuore, benedici, adora, loda il Signore, nient'altro. Predica a se stesso. E subito dopo che predica a se stesso, esclama, dice questa cosa, stiamo ancora nel versetto 1, lo so, e dice: mio Dio, tu sei veramente grande. Le deve forse ancora meditare, pensare le cose che poi descriverà dopo, di tutte le cose che Dio è, però già esclama: mio Dio, tu sei veramente grande. E questa è una conoscenza del cuore, quello che dicevo prima, è una conoscenza del cuore, non è solo una conoscenza mentale di chi Dio è, no? È una cosa, fratelli e sorelle, che io non posso passarvi. Se tu non lo vivi, io non ci posso fare nulla, per questo è la mia preghiera, e oh Signore, pregavo stamattina qui nel mio ufficio, il Signore, che possano vivere 10 volte di più quello che io vivo con te, che possano conoscerti, non conoscere di te, chi tu sei, per sentito dire o perché hanno visto qualcun altro viverti. No, Signore, che loro possano conoscerti. E il salmista predica questo, e a chi lo predica? Lo predica a se stesso. E dice: Signore, tu sei meraviglioso, tu sei veramente grande. Come no, quando la differenza fra aver sentito dire qualcosa, tipo quello è proprio bravo a giocare, e poi ci vai sul campo o lo vedi allo stadio e dici: mo, veramente è grande quello, è veramente bravo a giocare, è veramente alto quello. No, un conto è sentirlo dire, un conto è che te lo ritrovi davanti e dici: ma è vero, questo il salmista sta facendo. Lui l'ha incontrato, l'ha conosciuto personalmente, ha detto: Signore, tu sei veramente grande. E questo è quello che fa il salmista, e risveglia il suo stupore, e risveglia il suo stupore, che il nostro stupore di chi Dio è possa risvegliarsi. E il salmista lo risveglia di 3 cose in particolar modo, che voglio vedere velocemente attraverso i versi di questo salmo. La prima è che dice: Signore, tu sei veramente grande. Non quello che hai fatto, o come lo sostieni, ma tu stesso sei veramente grande. Il verso 2 dice: egli si avvolge di luce come di una veste, e stende i cieli come una tenda. Vi voglio far vedere un'altra foto, e questa è la foto di quanto grande è il sole rispetto alla terra. Vedete un po'? Quel piccolo puntino è la terra. Immaginate, voi state in quel puntino e siete un puntino del puntino del puntino del puntino, no? E questa è la grandezza del sole. Adesso vi faccio vedere un'altra immagine. E questa altra immagine compara quanto piccolo è il sole rispetto alla stella più grande che hanno scoperto fino ad oggi. Vedi quanto è piccolo? Vi ricordate quando il sole... Il tuo Dio, il mio Dio, della luce, di queste luci, si riveste, si fa la copertina, non solo li ha creati, non solo li sostiene affinché continuino ad emanare costantemente luce, ma li prende e se ne va una copertina. Prende l'universo, i cieli, no? Qui descritti, li chiameremmo oggi l'universo. Prende l'universo e lo stende come una tenda, così, sai, le tende, la canadese, la prende e fa così. Quanto è grande il mio Dio, quanto è grande il tuo Dio. Questo è il grande Dio che noi serviamo, questo è il grande Dio che in questo momento, chiudendo gli occhi, possiamo dire: Signore, tu sei qui e io posso parlarti. Tu sei immenso, sei più grande delle stelle, delle stelle, delle stelle. Le prendi tutte insieme, te ne fai una copertina e io posso venire a te e ammirare la tua grandezza. Non è un miracolo questo? Che i nostri cuori possano risvegliarsi a questo, che le nostre anime possano iniziare a predicare a noi stesse: adora questo Dio perché è magnifico. Non solo, il salmista quindi loda e adora Dio per chi è, abbiamo visto della sua luce, ma di quello che ha creato. Il verso 5 dice: tu hai stabilito la terra sulle sue basi È lui che l'ha stabilita, è lui che l'ha creata, è lui che l'ha formata. Questo salmo ricorda molto il primo capitolo di Genesi, no? È come se lo ripete in forma poetica, no? Non vuole essere un trattato scientifico o biologico, o bio, sì, bio quello che è. Non sta descrivendo un trattato scientifico di come sono veramente accadute le cose, no, sta solo lodando il Signore per quello che è successo. Non vuole essere preciso, vuole adorare il Dio glorioso per chi lui è. E del fatto che si fa una copertina delle stelle più grandi del cielo è una cosa meravigliosa. Ma loda il Signore con la potenza con cui ha creato ogni cosa. E in particolar modo a me ha colpito, dai versi 5 al 26, l'acqua. No, è descritta più volte l'acqua. Tu hai stabilito l'acqua sulla terra, no? Molto probabilmente l'atmosfera, che ne so, non è descrittivo, però diciamo che possiamo immaginarlo così. Tu hai creato quella, poi hai creato gli oceani e gli oceani erano sopra le montagne e poi a un certo punto hai fatto così e gli oceani sono andati dove dovevano andare. E poi hai creato i fiumi e hai detto ai fiumi dove dovevano scorrere e quello che dovevano fare. E poi non solo hai creato e hai stabilito le acque sulla terra e quello che dovevano fare sulla terra, hai stabilito e regolato anche le acque che stanno sotto la terra, perché da sotto la terra escono le sorgenti che scorrono fra i monti e danno acqua alle bestie della foresta. Quanto grande è il mio Dio! Lui controlla tutte le acque, lui controlla tutto il creato e l'ha creato in maniera stupenda. Ricordate, l'ha creato con una parola. Quanto grande è il tuo Dio, quanto grande è il mio Dio. Il tuo cuore si accende a tutto questo. Il mio cuore si è dovuto accendere a tutto questo in questa settimana. Non è una cosa che mi viene naturale, fratelli e sorelle. Non è una cosa che ci viene naturale. Per questo dobbiamo predicare a noi stessi. Per questo dobbiamo dire, anima mia, svegliati, anima mia, risorgi a questo. Perché il tuo Dio è meraviglioso. Ero in macchina. Aspettavo che i bambini uscissero da scuola e pioveva. Ed era quel giorno, no? La scorsa settimana l'acqua era proprio precisa, no? A questo esempio. Ero in macchina e pioveva ed era quel giorno che un momento pioveva di brutto, diciamo, molto pesantemente, e poi il secondo dopo smetteva e poi riprendeva, no? Era, non ricordo quando era, no, non me lo ricordo, però un giorno della scorsa settimana. Ed ero in macchina lì. E osservavo la pioggia, osservavo le acque, ero in macchina, quindi sulla carrozzeria sentivo le gocce. E no, come sempre tendevo a pensare, no, delle paure, le ansie, devo fare questo, devo fare quello, non ho finito ancora di prepararmi, Signore aiutami. E poi lì ho sentito, anima mia, fermati e adora Dio. E io mi sono fermato, ho detto, guarda un po' le gocce della pioggia, cadono sulla mia macchina e ci sono grandi, ci sono piccole, adesso ci sono, adesso non ci sono. Signore, tu sei veramente grande perché hai stabilito ognuna di queste gocce, quante ne dovevano cadere, dove dovevano cadere e dove dovevano andare a finire. Quanto grande sei, e se hai il controllo di ognuna di queste gocce, quanto più hai il controllo della mia vita. Che il nostro cuore possa risvegliarsi a queste cose, fratelli e sorelle. Che il nostro cuore possa accendersi a queste cose. Che il tuo cuore e il mio cuore possano adorare Dio per quello che veramente è. Perché Lui ha fatto ogni cosa in modo stupendo. Ci sarebbero da parlare ore su questo salmo, e del fatto che l'uomo ha dato il vino all'uomo. Non c'ho il tempo, andiamo avanti, perché non solo ha creato in maniera, quindi lui stesso non solo è potente, il verso 2 lo sottolinea, non solo lui ha creato con potenza, ma lui sostiene ogni cosa con potenza. Il salmo dice proprio questo, no? Dice, tutti quanti, verso 27, tutti quanti sperano in te, le bestie dei campi aspettano che tu li sfami, aspettano te. Quindi lui non solo ha creato il sole e la luna per poi abbandonarli a se stesso. No, c'è scritto che è lui che indica il sole quando deve sorgere e alle tenebre quando devono calare. È lui che sostiene la luna nel ricordargli le stagioni. Lui ha creato le bestie del cielo, del mare e della terra e non li ha abbandonati a sé. Non li ha abbandonati, li sostiene continuamente. Gesù l'ha detto, guardate ai passeri dei cieli. Guardate ai passeri dei cieli. Io mi prendo ai gigli dei campi. Io mi prendo cura di loro, quanto più di voi. Questo salmo ricalca queste verità. Ricalca la gloria e la potenza di Dio non solo nel creare, ma il fatto che sostiene tutte queste cose in vita. Non è meraviglioso? Quanto meraviglioso è il tuo Dio? Quanto meraviglioso è il mio Dio? Il tuo cuore si sta accendendo. Il tuo cuore si accende a questo. Signore, fa che i nostri cuori possano risvegliarsi a tutto questo. Amen. E il Salmo conclude con l'adorazione. Ha iniziato con l'adorazione, proclama l'adorazione a Dio per chi Lui è e conclude con l'adorazione. Il verso 31 dice, duri per sempre la gloria del Signore. Duri per sempre, duri la gloria del Signore. E questa frase non sta per, di nuovo, spero che la gloria del Signore duri per sempre. Cioè, mo prego il Signore che la sua gloria duri per sempre. Non può essere così. La parola di Dio è satura del fatto che la sua gloria splenderà di eternità. Lo ha fatto sempre e sempre lo farà. La sua gloria durerà per sempre. Il salmista sta dicendo qui a se stesso, sta ricordando e profeticamente sta predicando che la sua gloria durerà per sempre. Amen. Perché la sua gloria è manifesta nella sua parola e questa è una cosa gloriosa. E quindi profeticamente sta predicando questo e lo predica a se stesso, che la gloria del Signore possa durare per sempre. E come lo fa? Come fa il salmista praticamente anche? Perché il Salmo ci dà anche elementi come combattere questa battaglia per concentrare i nostri cuori a concentrarsi su Dio e su chi Lui è. Il salmista vuole adorare, lo fa in tre modi, velocemente. Lo fa in tre modi, dice gioendo. Il verso 34 dice io esulterò nel Signore. Guarderò a quello che mi sta attorno, guarderò al sole, alla luna, alle stelle, guarderò alle bestie dei campi, guarderò alle piante, io guardavo le piante delle fave, sono andato a correre, le piante delle fave, dicevo Signore grazie per le piante delle fave perché tu le hai stabilite, tu le hai create, tu decidi che loro portano frutto per chi? Per l'uomo, c'è scritto. Lui ha stabilito le piante. Grazie Signore per questa cosa. Io esulto in questa cosa. Io esulto nella pioggia. Io esulto nelle nuvole. Io esulto nel sole splendente che c'era questa mattina. Perché solo mi ricorda della tua gloria. Perché tu splendi miliardi e milioni di miliardi di milioni di miliardi di volte in più del nostro sole. Questo è il nostro Dio. E io esulterò in questo. Il verso 31 dice che il Signore possa gioire, scusate, ve lo leggo perché, gioisca il Signore delle sue opere. Anche qui il salmista non dice speriamo che il Signore gioirà delle sue opere, di quello che ha fatto, speriamo che è contento di quello che ha fatto. Non è così, perché in Genesi 1 è scritto che dopo ogni cosa creata c'è scritto il Signore, che c'è scritto? Disse che era cosa buona, era compiaciuto, era gioioso di quello che aveva fatto. Quanto più se Dio gioisce nel suo creato, quanto più dobbiamo gioire noi nel suo creato. Fratelli e sorelle, questo non mi viene naturale, questo non ci viene naturale, è una battaglia. È una battaglia dei nostri cuori. Io devo dire al cuore del mio cuore, alla mia anima, anima mia, benedici il Signore in tutto quello che vedi. È stato uno sforzo, è stato un impegno, è stato un prendere a schiaffi il mio cuore la scorsa settimana, che quando sono andato a correre ho visto la pianta delle fave, ho detto Signore grazie per questa pianta delle fave. Perché? Perché manifesta la tua gloria, del fatto che tu l'hai creata, che tu la sostieni e la sostieni per sostenere l'uomo. Una pianta di fave! Una pianta di fave manifesta la sua gloria. Questo deve riempire i nostri cuori di gioia, anche quando non lo fanno. E questo è un predicare a noi stessi, questo è uno sforzare noi stessi. Non solo, quindi, il salmista adora Dio con il gioire, lo fa anche cantando e salmeggiando. Il verso 33 dice: canterò al Signore finché avrò vita, salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Di nuovo sta predicando a se stesso, sta dicendo: cuore del mio cuore, canta finché ti rimane un briciolo di vita nelle tue ossa. Adoralo perché Lui è degno, perché Lui è glorioso, perché Lui è più alto e perché io posso farlo. E dice: finché avrò esistenza. Qui sta parlando della sua vita qui sulla terra, e finché nel cieli dei cieli alla sua presenza esisterà per sempre, dirà: adora il tuo Dio perché Lui è degno, solo Lui è degno, solo Lui è grande, solo Lui è glorioso. Questo è quello che fa il salmista, dice: canta, anima mia, canta. Come posso distogliere il mio sguardo da me stesso, dalle mie ansie, dalle mie paure, dalla mia tristezza, da tutto quello che vivete? Cantate. Questa settimana non vi dico quante volte ho cantato un vecchio canto che diceva: benedici, alma mia, l'Eterno. Benedici, alma mia, l'Eterno. L'Eterno, non dimenticare nessuno dei suoi benefici, perché Lui è glorioso. Canta. E l'ultima cosa è meditare. Il salmista dice: che possa la mia meditazione essergli gradita, verso 34, che la mia meditazione possa essergli gradita. Questo sottolinea il fatto che ci sono alcune meditazioni che gli sono gradite e alcune che non lo sono. Ci sono alcune meditazioni, fratelli e sorelle, che portano vita, e ci sono alcune meditazioni che portano la morte. Per questo il salmista, nel penultimo versetto, dice che non c'è posto né nella terra e né nella terra che verrà, diciamo così, quando saremo al suo cospetto, per i peccatori e gli empi. Non c'è posto. Solo per chi lo riconosce. Solo per chi riesce a risvegliare la sua anima e a dire: riconosci chi Dio è. C'è una meditazione che lo glorifica, è una meditazione che porta morte. C'è una meditazione che ci riempie del suo spirito e che ci riempie di tutta la pienezza di Dio. E c'è una meditazione, un mettere i nostri pensieri, opporre i nostri pensieri alle cose della carne, che portano morte e distruzione. Per questo il salmista dice: anima mia, tu, benedici il Signore. Questa mattina puoi cambiare il tuo cuore, lo puoi trasformare al Dio glorioso. Se questa volta non hai mai riconosciuto come il tuo Signore e come il tuo Salvatore, puoi dirgli: Signore, io voglio te, solo te voglio riconoscere. Signore, tu sei veramente grande, sei morto e sei risorto per te, per me, e io rimetto la mia vita nelle tue mani. Ti adoro. Questa è una meditazione, pensieri che portano vita e vita per sempre. Fratelli e sorelle, nelle nostre meditazioni dobbiamo combattere. Vedete, anche il salmista qui ci dice: non è che ce l'ha fatta, non è che ci è arrivato, non sa come si fa. Però combatte. Per questo il salmo finisce come è iniziato: anima mia, cuore del mio cuore, mente della mia mente, risvegliati alle cose gloriose di Dio. Mente, fermati, Dio è qui e io posso adorarlo per tutto quello che Lui è. Chiesa, in questo momento noi possiamo adorarlo per tutto quello che Lui è. Ci alziamo in piedi, chiudiamo i nostri occhi. Anima nostra, risvegliati. Fratelli e sorelle, io prego che in questo momento possiamo risvegliare i nostri cuori alle cose di Dio. E questa non è nostra forza, ma è per sua grazia che noi possiamo risvegliare i nostri cuori. Lui l'ha permesso. Cristo Gesù, c'è scritto, è morto affinché noi potessimo andare davanti al trono di Dio senza paura, con confidenza, per la sua grazia. Puoi andare davanti a Cristo Gesù, al Dio onnipotente, creatore dei cieli e della terra. In questo momento Lui è qui. di al cuore del tuo cuore. Prega come non hai mai pregato prima e conosci il tuo Dio in questo momento, in maniera più profonda, in maniera più gloriosa. Potente, tu sei qui e noi possiamo rivolgerti la parola. Padre, grazie perché è una tua grazia che in questo momento non ci fulmini, perché non siamo degni di tutta questa gloria, ma tu sei buono, buono, buono, e noi possiamo venire a te e vederti tutta la tua gloria. Grazie Padre, grazie Gesù, perché risplendi più di 1000 stelle e sei più potente di 1000 tuoni. Controlli ogni goccia di acqua. Quanto più il mio cuore, quanto più la mia vita, quanto più le mie situazioni, Signore, a te sia la mia gloria, a te sia la mia adorazione. Sia magnificato il tuo nome in questo luogo, perché noi riconosciamo che tu sei qui. Oh Padre, accendi i nostri cuori, risvegliali, riempili del tuo spirito, della tua presenza. Padre, io prego per questi miei cari, qui insieme come stiamo davanti a te, davanti alla tua presenza gloriosa, Signore, che Padre possiamo essere ripieni di tutta la tua pienezza, Signore. Padre, rivela a noi quanto questo è impossibile e comunque tu lo fai. Riempici di tutta la tua pienezza, Signore, affinché possiamo glorificarti, adorarti sempre di più per quello che sei, Signore. A te la gloria, Padre. A te la gloria, Signore. A te la gloria, Signore.